Goppa levere che dura, se ne scende ne colore, e cammino vicchiariello sotto luna. Quanti volte si è fermata per parlare con qualcuno, e non ci sta mai nessuno che si ferma per sentire. E cammino vicino a porta, e rarena pensa morto. Se venissimo fossi più contento, tanti parlo e nessuno mi sente. Guarda no mare, pensa a Maria, che mo non c'è sta più. So solo 3 anni e ci penso tutte sere, passo tempo e non mi paro vero. E cammina vicino a porta, e chi a niente aspetta morto. Sotto luna non parla nessuno, sotto luna nessuno vuol sentire. Da da da da da da.